Come la penso io? Guarda, è un grandissimo imprenditore, quello è poco ma sicuro, il fatto suo lo sa. E secondo me, per come lo vedo io anche l'ho visto che aveva troppo potere, dunque ho trovato tutti i modi di buttarlo fuori, solo per quello, alla fin fine. Perché abbia fatto cose belle o brutte, alla fine si dà la mano con tutti, per come la vedo io. Se uno ha buttato fuori perché era troppo potere, dunque ha trovato qualsiasi modo pur di... Poi ho trovato in mezzo ai piedi, secondo me è una persona un po' troppo scomoda. Giusto, per questo sono d'accordo con te. Su questo sono d'accordo con te. Ciò non toglie che abbia infranto la legge. Perciò ce l'hanno buttato fuori perché hanno applicato la legge. Perché lui è come tutti gli italiani, né più né meno. Perciò è inutile andare a dire del resto che cosa ha fatto in questi 20 anni. Non ha fatto altro che portare l'Italia ad un debito enorme, enorme. Lui ha fatto solo le leggi per se stesso, è il dittatore del suo partito, perché non accettava consigli da nessuno. Ha fatto sempre quello che ha voluto lui, dunque ragionateci un attimino, poi ve ne rendete conto. Ai debiti c'erano già, perché quando c'è la mortadella ha fatto un casino, un viso, si è peccato rinare e ucciso. I debiti c'erano, ma non erano come quelli di oggi. Oggi sono irrecuperabili. L'Italia oggi è irrecuperabile. Prima invece lui aveva promesso che non aveva mai aumentato le tasse. Invece in questi 20 anni che lui ha governato, le tasse sono aumentate a dismisura e tutto il resto è calato, soprattutto il mondo del lavoro. Ha pensato solo ed esclusivamente a se stesso. Pensateci un attimino così, con calma, e poi ve ne renderete conto. Prego. Avanti il brecco. E va, c'è la parola. Un rapporto di segnale, va avanti, di radio, grazie. Non ho capito bene chi sei, sono Barracuda da Ossi. Avanti, fai un passaggio. Ciao Barracuda, buonasera. California era questa. Ah, ciao California, buonasera, mi hai sentito. Il apparato che sto usando io sta arrivando un Santiago di 3, una radio di quasi 4. Ti ascolto così con questo apparato. 9 più 15, radio perfetta, amplificata. Avanti, fra, ciao. Ciao Giulio, buonasera. Buonasera, non so più altro che sia. No, perché stiamo sistemando alcune cosette qua. Ciao fra. Avete 9 più 10, la radio è perfetta, 9 più 10 da parte mia. Io sono postazione ottava, capisci Franco? Postazione ottava, se conosci la modulazione. Telefono. Capito Fra? Sì, ho capito. Sento, no, lo sento la verità, non tanto come voi. C'è una modulazione un pochettino più fiacca, allora io lo sento così. E poi se cambiando apparato riesco a tirarlo, a sentirlo meglio, ma comunque già va bene. Ho una zona un pochettino nascosta. Ma non lo so fare, va bene. Ascoltando nella tua zona, a cambio. Ok, qui chiami Capri 2, mi ascolti? Ma c'è una modulazione sotto, ma non riesco a capire chi sia. È Gianni Capri 2, ti sta chiedendo come l'ascolti da Muros. Gianni Capri 2, tra. Buona avanti, Gianni. Gianni, aspetta un attimo. Sei troppo amplificato già, non si capisce nulla. Aspetta, California, mi senti? Ah, è positivo, ora riesco a tirarti fuori, avanti. Ok, sto modulando con un apparato, sto modulando, con 680. Ma sta arrivando molto basso qua, Santiago 5. Però aspetta un muro. Sto modulando, sto su un apparato, con 680, sto 680 qua. Hai copiato fra quello che ti ha detto, sta modulando col tuo apparato, col cable, sì, 80. Lo sento male, molto basso. Perché a volte si avvicina troppo il microfono e anche a me da partito che siamo vicinissimi, aspetta. Ok. Calentore, tu mi ascolti bene, sempre la Barracuda Rossi? Grazie. Giulio, come lo senti tu a Capri 2? Con la radio pasticciata lo sento. Alle volte strappa molto. Diversa, una voce diversa che fa capito. sì, vai Antonio. Come? Sì, sì, va tutto bene. Buonasera, Barracuda. Forte e chiaro, sì, ti sentivo molto... troppo acuta ti sentivo, adesso va bene, questa è la tua. A voglia. Quindi già va bene. Forse già produttore adesso parla già. Siccome io ho un fattore un po' conosci, lo toccherai. Al massimo, l'avevo messo al massimo, diciamo, ero sempre. Solo che magari sai cos'è, ho cambiato la batteria, ho cambiato. Allora, siccome questa batteria, diciamo, devo capire, diciamo, perché la carriera si sa che, diciamo, è la batteria più importante delle altre, questo è il diciamo, avendo ci messo questa batteria, diciamo, diciamo la modificazione, diciamo, è troppo acuta, come lì è stato. Adesso, adesso, diciamo, il tono, diciamo, diciamo, il tono, diciamo, a metà, e quindi adesso, diciamo, ho fatto, diciamo, la... perfetto, anche troppo a fronte adesso, Luda. Adesso è anche troppo a fronte, che noi siamo di fronte. Anche troppo a fronte, invece, direi poco. Mettere un poco lontanando il microfono, almeno in questo apparato. Non lo so, Giulio, mi hai inizi adesso? Sì, così va bene. Se parli calmo, senza... non ti sta ricorrendo nessuno intanto. Se tu parli calmo, pesci molto, ma molto meglio. Se no arrivi con una radio tutta quanta messa male. Mentre invece adesso sei uscito benissimo in questo passaggio che hai fatto, così, calmo, calmo, tranquillo, pacifico, sereno, che intanto nessuno ti segue. Avanti ancora, riprendi. Aspetta, scusate un attimo, c'è anche Gufo messo da parte. Si era sentato Graziano, riprendi Gianni Capri 2. Ok, si era in California, non so. Franco, chi sei? Sta lavorando al baracchino. Ma non ascoltate quando state trasmettendo. L'euforia vi fa distrarre. Avanti ancora, Gianni Capri 2. Fai girare per le persone che ci sono, Antonello, io, Uranio e in questo momento Luigi, e basta, avanti, riprende e fai girare. Ok, vado, un giostraio, se fai girare, avanti, Gigi Vulcano. Fa, però sono detto messo su, però da dentro in garage, perché in garage non fa, c'è troppo freddo, e allora me l'ho messo qua in questa camera, ho messo un banco per poterci lavorare, farmi qualche lavoretto per patteggiare ogni tanto, e ero impegnato tutto il giorno, mi sono spostato tutte le immobili ricusi, mi ho spostato e mi ho messo e mi ho fatto una un'altra parete, mi sono fatto la stazioncina e me la sono fatta tutta in una parete, e mi ho portato tutto su da giù, mi ha portato tutto su, e così non so, mi serve una cosa, vai giù, vai su, ecco, e me l'ho messa tutto qua, mi ho messo un tavolo da un metro, mi sono fatto un tavoletto, ho preso un po' il mestiere, rubato il mestiere a Giulio, un tavolo, mi sono fatto un mobiletto, con gli sportelli, un cassetto, un banco di lavoro mi sono fatto, me servo questa specie di formica, di cosa, di bardamento di cucina, che mettono nel lavandino, una cosa, un petto da un metro nel rimasto, e mi sono fatto un ripiano per lavorare e me l'ho messo su, e così non so stare, scendi lì, devo fare qualche cosa di grosso, vado giù in garage, così mi sono portato tutto su, mi sono fatto un tavolino per poterci lavorare a casa, dai, così adesso c'è il coso acceso, qua c'ho caldo, sto bene, invece in garage quando c'è da fare qualche cosa c'è freddo, invece almeno qua sono al riparo, più riparato, avanti Giulio. Ok lui, hai fatto bene, così stai più comodo a casa, meno freddo, prendi eccetera. In estate già va benissimo nel garage, non ci sono problemi, ma d'inverno comincia a essere un pochino più critica la situazione, mentre a casa ti trovi senz'altro meglio, la temperatura. E vabbè, io sto aspettando l'orario della partita, mi alle 6:30, devo guardare la Juventus Udinese, vediamo un po' che cosa succede. Va bene, dai, tra un quarto d'ora chiudo, così comincio a scaldare i motori della televisione. Va bene. Avanti, Antonè. Eccomi, no, io giù, niente partita, no, la verità non è mai piaciuta, Seguo ogni tanto il pugilato lì a Sport Italia, ma niente di più, proprio il calcio, guarda, non mi sono mai interessato. Sì, in casi particolari, giustamente, quando c'è l'Italia, il mondiale poi per il resto è sempre messo da parte, non sono per niente appassionato di calcio. Ok, vabbè. Forse vedo tutto comunque, calcio, pugilato, ciclismo, atletica leggera, tutto, qualsiasi tipo di sport, basta che a uno piaccia. No, io seguo di più il calcio, poi un po' anche pugilato, ovviamente, l'atletica leggera e il ciclismo, e il motociclismo, mentre la Formula 1 non mi attrae troppo, il motociclismo sì, quello già mi piace. Va bene, facciamo girare. Avanti Gianni. Ok, perfetto. Ok, no, io qualche volta lo seguo tutto, sia calcio, motociclismo, tutto, però molte volte il discorso non se ne ha voglia di stare, capito, perché se ne peggiore, se ne uno, se ne... magari sto guardando quella roba lì, c'è qualche altra cosa che interessa a loro, ma è capito. E bisogna accontentare gli altri, però diciamo che ne uno perché li siamo di antenne e uno, perché un altro di chi succedo, e bisogna fare un impianto d'antenna, ho visto che ci sono questi occhi con due, oddio come si chiama, perché c'è anche una cover cover. E quindi me ne metto uno, chiedo poi c'è la postazione radio, e così non disturba nessuno, ma questo lo facciamo alle vacanze, e quando vado in vacanza per Natale cerchiamo di fare qualcosa e fare anche un impianto ben fatto. Ok, anche rilanciamo adesso dunque. Graziano sta facendo cosa, Antonello? Già, quindi riprendi. È positivo, io anche io mi sono tra 15 anni di ultimo, mi ha detto Giulio, e poi devo fare delle cosette qua a casa, dai, vado a... che mi sono chiuso in questa cameretta adesso, perché sennò c'è pure il caldo. Stavo bene, c'è un bel caldo, non avevo mai me l'ha acceso la luce dentro, chiuso la porta e sto benissimo, intanto siamo io e fate vedere adesso qua. E sono a posto. Vai Antone. E a voi per queste comodità. Si mica più in fretta G, lasciano perdere il televisore. No, guarda, tu lo sai che io non lo potrei neanche acceso, non lo potrei neanche guardare, a volte non lo seguo, però se manca il televisore per me, adesso io qua sto parlando con voi, sembra mi dire il tono e non vedo il televisore, e mi sembra che mi manchi qualcosa, capito? Proprio senza la televisione no, mi sembra, ormai siamo abituati, quando sono nato io non c'era, perché in casa non c'era la televisione, quando ero piccolino io la prima televisione mi pare avrò avuto già 7-8 anni, quando forse anche di mi pare stavo già iniziando ad andare in prima elementare quando avevo avuto la prima televisione. Immaginate, non c'era neanche la corrente elettrica qui a Ottava, come faceva per la televisione, non c'era neanche la corrente elettrica, ti puoi immaginare. La corrente avrò avuto 6-7 anni, io me lo ricordo, quando ho costruito la cabina, l'ho fatta la prima luce, avrò avuto 6-7 anni massimo, e subito è stata comprata la televisione, capito? Non c'era nessun divertimento di quando la televisione c'erano quei due canali, primo e secondo, e basta, non c'era altro, il primo e il secondo c'era, giusto Giulio? Sì, infatti è così, glielo credo, prima non c'erano le comunità di oggi, indubbiamente, non c'era la corrente elettrica, tu pensa che io ho conosciuto la candela a petrolio, ho conosciuto, tanto per darti un'idea, ti puoi immaginare quanto sono... I tempi passano, vanno avanti e migliorano sempre. Speriamo che migliori invece il mondo del lavoro, altro che. E a proposito di televisione, qua la televisione qui si accende la mattina, più o meno verso le 9, quando mia moglie scende giù in tavernetta, accende la televisione e rimane tutta la mattina accesa sino a verso le 3:30, una cosa del genere, tutto il tempo di pranzare e di fare le pulizie della cucina, poi dopo pranzo. Dopo si trasferisce in salone e rimane fino a tardi la sera, insomma. E tante volte anche sino alle 2 di notte, si può immaginare. No, qui la televisione è sempre accesa, sempre, dalla mattina alla sera. E ti dirò di più, tante volte ce ne sono 3 televisori accesi. Perché? Perché uno lo guarda mia moglie, uno lo guardo io e uno lo guarda mia figlia, perché si può immaginare che è andata lì, no, la televisione fa molta compagnia, dunque, specialmente mia moglie, se mi spegne la televisione è triste. Invece lì, anche se magari non lo guardo, però mi sono fatto di sentire la voce della televisione, è già una grande compagnia. Va bene, avanti Gianni. Perché abbiamo commesso una gaffa, anche ho commesso una gaffa, c'era anche Uranio, scusa Uranio, e da Ronca non mi funziona più, per me. Ok, ci sei Uranio, vieni avanti. Gianni, normale, ma sei giovane, sei più giovane, da adesso questa festa, allora, quando sarai vecchio, come farai allora, se sei più giovane, questa festa, vabbè, dai, io mi sto scherzando, facci caso. Cosa che succede, non so, già sono abituato a fare il parcheggio, non mi farei attratti, diciamo così, la dopo, diciamo, mi quel giro lì, poi ne sono salito da Mauni, ho fatto il sulì, ho ritirato il formaggio lì, una pedana di formaggio lì, e poi normalmente pasta fresca e dolci lì a Nuoro, perché era da portare lì alla fiera di Milano, oggi c'è la fiera a Milano, ci sono i prodotti sardi e formaggi, dolci, pasta e tutto c'è. Sa, si imbatte, no, non c'è comunicazione da venire da Bipi verso l'altro quello disperso ancora non si è trovato. Le multe sono diventate 17, ma questo disperso non si trova, questo pastore, e sicuramente anche quello sarà morto, chissà dove ce l'ha buttato. Ecco, lo sa. E già ho sentito, sì, ho visto tante volte la televisione e ne ha fatto di bel disastro, per carità. Poi, povera gente, ma speriamo bene, speriamo che non soffrono più di tanto queste persone, perché giustamente poi vengono a dire case abusive, ma non c'entra niente, il discorso abusivo non c'entra proprio niente. È successo questa valanga di acqua, è arrivata e ha buttato giù, perché avrebbe buttato giù anche case col soggetto che non erano abusive, le ha buttate giù lo stesso, dunque ha fatto danno non indifferente, lo so. Basta pensare, ha inquinato il mare, caspita, ha distrutto l'allevamento delle cotre a Olbia, ha trascinato via tutto anche il mare, che puoi immaginare, il mare è quello che raccoglie tutto, nel senso che l'acqua finisce tutta lì poi alla fin fine, no? Nonostante tutto anche lì ha fatto danno, per dire, mi ha fatto di bel danno, per carità, cose che qua non si sono mai manifestate, speriamo che non, che sia la prima e l'unica volta che ha fatto tutto questo danno, perché altre volte ci sono state anche qualche anno fa, ci sono state tipo a Capoterra, eccetera, però questa volta ha fatto sul serio, altro che, ve ne prendi Gianni Capri 2. Capri 2 mi sembra che c'era sentato, avanti Antonio. Sì, io vi devo lasciare 5 minuti, è venuto mio fratello, ci sentiamo dopo. Vabbè, allora riprendo io e faccio girare per Uranio. Avanti Uranio. Okay. Bene, quindi allora l'acqua ci ha potenza. Dobbiamo passare il viole, mi pare che ci sembra una ben poco niente. Quella era una vera e autentica luviole. Ok, tornato ancora peggio, si è fatto tornare meno fastidio. Ma quella, se non ero tornato, diciamo, era una luviole, appunto, come appunto detto, vera e propria, quindi l'acqua non scherza lo stesso, ma che passa quella lì che si incastra, porta via tutto. E appunto se, diciamo, la trovicchia ci è rimasta, diciamo, è andata a nuovo, se è portata via, ovviamente quando sta a nuovo che si è portato via, diciamo, questa alluvione, diciamo, di Martento, quando quella era pensata, era pensata, era quella, essendo che la vecchia ci è rimasta, questa, diciamo, nuova addirittura è portata via, come si è portata via altre cose, ovviamente. Purtroppo sono cose, diciamo, brutte, veliche, diciamo, non sono tanto belle, no, da vedere, no, come si tiri pure, perché, diciamo, per noi fare così, però per chi, diciamo, ha subito i danni di un casino, ci sono miliardi di danni, non milioni, miliardi di danni ha fatto quella frontera lì, quindi sono casini solo, purtroppo è così, scappa. Il tempo, diciamo, non si può fermare, diciamo, è fatto come dice lui, benissimo, non ho bisogno di telefonando e non accetto comandi da nessuno, benissimo, così è lui. E ora, così è, Giulia, io nella vita mia, no, negli anni miei, io non l'avevo mai visto, perché io c'ero, ci stavo viaggiando, c'ero lì, al momento che c'era quest'acqua, c'ero, stavo passando. qualche camion, l'ho vista ad esempio in quella galleria, quel camion pieno carico di automobili, c'è 2 metri d'acqua, bloccato anche quello, mamma mia, c'è da spaventarsi veramente, veramente da spaventarsi, per carità. Speriamo bene per quella gente, io sinceramente mi dispiace veramente per tutto quello che è successo, ma non tanto, lo sappiamo che disastri climatici possono avvenire così, però per la povera gente che adesso ha perso tutto, ha perso la casa, ha perso i mobili, ha perso qualsiasi cosa, hanno perso gli affetti familiari perché ci sono stati diversi morti, tutte queste cose, tu immagini che razza di tragedia, che razza di situazione che si è creata lì, per carità, vai tu a riprenditi, oia, vabbè, la vita continua lo stesso, d'accordo, però sono momenti questi veramente terrificanti. Vabbè, dai, è arrivata l'ora della partita, sono quasi le 6:30 e dunque io vi lascio, dai, vi saluto, ciao Luigi, grazie per questo, ciao Uranio, salutoni a tutti e due, ci sentiamo le prossime, io vado a guardare la partita, riprendi Uranio, vai, ascolto fino a lì, poi chiudo, riprendi là. Thank you. stasera che abbiamo c'è qua, no? Vedete? Fa che cosa che non va bene, c'è cioè, allora, qualcosa che non va bene, Francesco, qualcosa, bene, ma nel stazionare c'è un roadmap da controllare, se sia a posto, le controllate quelle cose. Ciao. da Mercy. C'è Carbone, vai. Ma ci dica così. Davvero. Vai a Rosa, ma la dite. Distributora di Woody, perché prima ero carrozzato. che mi hanno dato una gara a me. E mi ho salvato anche lui. E poi sono ricominciato. E la cucina. E il soggiorno. E gli anni. E l'arcometto del bagno. Anche se c'è pure i bicigli, sì, le ho fatte fuori. La incinta, bambina, bambina e bambina. E dunque, fino a pensare a Zocco, già preparare le buche, Luca. Purtroppo la vita è così, è povero, però io non mi posso lamentare, perché ho sempre lavorato, assicurato, senza assicurazione, all'inizio, oppure quando ero disoccupato mi arrangiavo a fare rovescio, tutto che ci raccattavo quasi, a cui ciocca, qualsiasi cosa, però una parte che cercavo sempre un po' di lavoro fisso. Andavo a quell'ufficio, io non ne avevo capito. E tiravo lì, ma come le ho raggiunte le marchette di lavoro, anche se poi me ne sono dovuto andare a lavorare, cioè mi sono cucciugura, perché avevo il grado di invalidità, c'è il parcheggio, sono di sormovecchio. Allora mi prendo la pensione delle marchette che ho lavorato. Che dovevo uscire cappello, vero Luca? Sono andato a accompagnare a Maurizio. Enrico, ancora in giro, sì. Sì, 5 minuti mi sono fermato a fumare una sigaretta. Al telefono. No, ho capito. Che palle, dopo mi ho fatto di pollo. Perché mi ha detto non ha cucinato. C'è un salame da cucinare. Frutta e boh. Scappa gatta. Tu parla del pollo. Sì, l'ho fatto. Ho fatto il pollo, ma abbiamo mangiato un po' tardi, la verità. Perché poi ho fatto anche una teglia di patatine in forno e ho dovuto aspettare che cucinasse il pollo, che finisce il pollo di cucinare e poi gli ho dovuto mettere le patate. Ascolta, ho fatto anche in tempo a guardare il TG. Guarda che ci deve essere ancora, che ne so? 7:10. Provo a metterlo, che può darsi che ci sia ancora. Cosa c'è? Boh, chissà dove è, siccome avevo fatto la... cosa c'è già? Avevo cancellato tutti i canali perché mi appariva il sottotitolo. Non gliela metto di male, poi cosa era? Il cartino che c'è sotto, no? Perché il telecomando, questo... dove cavolo è? Questo sub, quello lì c'era cliccato e mi appariva sotto il sottotitolo su Mediaset. Vabbè, dai. C'è, ma non è la registrazione di quella sfidata di moda dove c'era Manuela che cantava anche qui. E dove? Televisi. Dov'era la sfidata? Alla Piazzetta. Fanno le domande domenica, lo vanno di solito. C'è la sera della sposa. C'era anche cosa, quello, come si chiama? Mariello. No, c'è altra roba già. Si è in grado di farle, no, non lo sei in grado. Scusa. Ma le prove si fanno così, perché così a una persona gli dai l'illusione. Secondo te è più deluso che arriva quinto o che arriva secondo? Al secondo gli fai toccare la vittoria, se arriva lì e sembra che sta arrivando, capito? È lì. Ma cosa c'è? Il problema è che tanto tu attacchi, fai, però non hai concluso niente. Metti là su e poi vediamo, ma rimani tu illuso, che arrivi anche con quell'antenna come adesso, con quelle condizioni. Arrivano aperti su. Yaru, però ti sto dicendo che nel momento in cui la faccio salire di 8 metri è normale, guarda, sono 3,20 metri di solaio, più sulla casetta fai che altri 2 metri glieli faccio recuperare, più 4 anni di palo, cioè stiamo parlando di quasi 10 metri, cioè lascia perdere. Prova, sono pluvi, non sai, no? Quando hai la possibilità di fare la prova e poi provate, ma io spero che non esci deluso. Dici che hai portato la terra e hai guadagnato 2 punti, capito? Ma non lo so, fate voi, io non sono in grado di fare prove con nessuno, perché non mi interessa. Vediamo, a parte che stiamo giocando, figurati, non è che me ne cambia qualcosa nella vita. Vero è che il vero deluso è, anche se dovessimo arrivare, ma già come adesso, di avere un par contenne da migliaia di euro e arrivare quanto arrivo io che vado a tenere un gagaddu, già è perso in partenza, no? O sbaglio? Ciò vuol dire anche, guarda che basta la terra di capolo, secondo dopo è messa, è posizione, spacchi il culo a tutti, mianto, anche se lui ha una terra da 20.000 euro, capito? Ti voglio dire, spacchi il culo a tutti, chiave è posizione, ci pompi su 200 watt, anche 100 quelli che sono, ammazza a tutti. Potrei finire di saldare questa cosa, riprendo subito. No, quello che mi sta dando problemi è fare i TVI, tanto è vero che abbasso ancora di più. È che quando scaldano questi Kenwood hanno dei picchi di potenza da paura. Anche io sto facendo TVI, adesso dai il controllo, aspetta, 2 secondi. Allora, vediamo. Su, mettere 2 tasselli di quelli sono chiamati l'Eclipse, quelli lì ho messo, perché questo campo stava sempre, un vento di andava sempre vicino alla persiana, e ho bloccato dietro la persiana, e sono lontano, devo salire da lì, tagliando lì, perché è bloccato lì, spero di no, se no guai, guai. Comunque ho notato anche che dentro il computer già mi entrava nell'audio. Ho notato un po' di trasferimento. No, è perché c'erano i piedi mollati, dai. Andava a spugli e sicuramente faceva quel problema. Fare, mamma. E no, come sempre risolvere le cose, no? È strano, perché da quando è uscito il digitale terrestre non ho più causato tipo guai. Dovrebbe causarlo, adesso le tue cose sono molto lontane. Thank you. ciao ciao, ho detto che non è finita il primo tempo la Juve. Ma l'Inter ha pareggiato. Chi? L'Inter. No, non lo so, io sto guardando la Juve. Finito il primo tempo adesso. No, io non ho detto lì, non ce n'è, è vero. Di meno di stamattina. Comunque ho girato le antenne a 175 gradi di fianco, fagli subito in piazza, stamattina invece la no. A 310 gradi era pericoloso, capito? Qua c'è un vento da non credere, qua è anche a Roma di mare, perché qua sta piegando gli alberi addirittura. Greccare. Ma quella te sono attuati da di più là. Non so cosa dire, casino, però diciamo secondo i punti la città questa non ce n'era, è strana, se qua c'è un ventaccio maledetto, stavo cercando di caricare la nostra porta pagati e non ce la faccio più aprire. Il mercale prende in pieno la te, qua lo prende di fianco. Allucinante, anche da Marco Scorpio in quella zona lì prende, no? Sempre di fianco. C'è la posta di fronte al mare, è quello. Papà, adesso vado a comprarmi l'antenna da fuori, se ce la faccio, e se non mi si bussa. Ci sentiamo, dai, ragazzi, ci sentiamo dopo, magari. Buona serata. Ehi, io sono il codice, che sono 10 minuti. Ciao, ciao, a me la mano la prova. Ci mette 12 metri, 6 metri, ma sera, mi sa mi rialzo, mangio. Forse mangio adesso, alle 10 volevo mangiare. Hai ragione, vai a mangiare. Ancora no. Ma non sei rimasto in 10 metri, Antonio? C'era Vittorio con la verticale. No, ma ero lì in radioascolto, stavo saldando della roba, mi sto mettendo a posto la stazione ancora. Non ti preoccupare, no. Cioè, non c'è problema. C'è anche Vittorio, anche Vittorio c'è la verticale, c'era Porto Rico, ha collegato tranquillamente. Che ogni tanto ti rimane lì tranquillamente. Okay. Comunque lui, te lo scrivo, è una fesseria, capito? 80 metri, 3600, già te lo scrivo, vai. Così quando senti a 525 che ci stiamo ascoltando, mi metti in ascolto. Dai, sta iniziando il secondo tempo, a dopo, un abbraccio a tutti, ci sentiamo, ciao. Ma ti ripeto, sto facendo tipo e comunque per quello che non mi sono fermato, non posso neanche dare massimo a potenza. Tanto va molto ci vuole calcolare, che di un lungo. Vabbè, comunque niente, già ci vado su internet, penso che sia su qrz.com. Ascolta, te lo spiego in 2 secondi. Pronto, sì. Vai, vai. No, se lo puoi sentirmi, se no rimani nell'ignoranza. Allora, tu ricordati che la velocità della luce è 300.000 km al secondo, che è la velocità che hanno le onde radio, chiaramente nell'atmosfera. Ci siamo? Perché 320.000? 300.000 vuol dire 3 con 5 zeri. Ok, 300.000, ok. Come se le vecchie 300.000 lire, va. Dopodiché dividi, trovi la frequenza, c'è una frequenza, per capire a che cosa equivale la lunghezza d'onda di quella frequenza, fai 300.000 diviso la frequenza che hai, ad esempio, questa qua siamo sulla 27.000, ci siamo, quindi fai 300.000 diviso 27.000 e tira esattamente 11,11 metri. Non ho capito. Vabbè, comunque già esiste una tabella, no? Le frequenze usate spesso e volentieri, così uno sa dove andare, no? Vabbè. Scusa tu. Così uno non si deve mantenere la testa. Poi a parte il fatto, come poco ci arriva a 28, arriva a 27, da 5 barde, A, B, C, D, manca la E. 4 barde, 1, 2, 3, 4, vai anche, sì, 5 barde a questo, non ci arriva a 28, ce lo guardate voi, dai. Ma poi lo sai che cos'è l'onda? L'onda del, come si chiama? L'onda, L'onda viene chiamata, l'onda che è una figura sinusoidale, che può essere espressa in sinusoide, viene espressa su due dimensioni, su tre dimensioni forma un'onda, al pari di come quando butti una pietra in uno stagno e crea quelle onde, quei cerchi concentrici. Quindi l'onda è la distanza che c'è fra la parte più alta e quella più bassa del sinusoide. Per esempio la te a meno, giusto, se sei in alto sono in basso. Che vado a fare il mio panino Gianni. Io mi sto cambiando un attimino. Ma tu lo sai, tanto io non sono intelligente in materia e io devi fare domande super difficili, scusa, ma la carta di cosa? C'è una, questo che ce l'abbiamo, una stampante, no? Ce l'hai, no? Ma non lo fai, una cosa di frequente lo verrate spesso e volentieri. Così c'ho la capacità di arrivarci, beh, c'ho pazienza. Sì, ma una volta che conosci che cos'è un'onda, come si può calcolare tranquillamente i bracci, diciamo, i bracci di un dipolo. Il dipolo da calcolare sono una gaggada, chiaramente poi ci sono delle subentrano a seconda delle cose, come si chiama, dei parametri diversi, però una volta che tu sai che l'onda è di 11 metri, come siamo qua. Per fare un dipolo di mezz'onda basta che fai un braccio da 5,75 m più un altro braccio da 5,75 m, polo caldo e polo freddo. Lo puoi fare anche di un coso di un quarto d'onda, e allora fai 2,75 m, anzi di mezz'onda è 5,50 5,50, mentre invece di mezz'onda è di un quarto d'onda è 2,75 2,75, e così a scendere, capito? Allora, vedi, su quelli ne ho fatto più di uno, ok, proprio fatti bene, sapete. Allora, ti spiego come li ho fatti, poi te lo dico in 448. Vedi, me. Allora, ho preso una cassetta, una vecchia cassetta, musica cassetta vuota, ok, ho fatto un buco, poi ti ho preso un, come si chiama, un, facciamo bene chiamato Annalia di Turca, vabbè, dove inserisce il PL, l'ingresso del PL, quello lì, e ci ho saldato un polo caldo e l'altro polo freddo, ci siamo? Vai piano perché non ti so, non sto capendo molto. Come si chiama quel affannapolo, affanculo, non ricordo il nome, c'è un nome, no? Dove tu ci inserisci il PL? Un PL femmina da cosa? Da pannello. Un PL femmina da pannello, avanza. E ti ho saldato un filo, un polo caldo e polo freddo. Cioè ho usato fili, capi di corrente, ok? Aspetta che sto scrivendo. Poi ho preso dei pezzi di canne, di tubo, quelli che usano l'elettricista, quel tubo dove infilano i fili, due pezzettini ho preso, e ne ho messo uno da una parte o dall'altra, ci sei? Hai fatto due isolatori, girami le palle, io... Ecco, allora ne ho fatto, ce l'ho tre o quattro, forse anche cinque, in realtà ho costruito, sono sincero, di cui due o tre li ho dati Alessandro Barbiere. Di questi 5 mi sa che 2 sono usciti bene, gli altri facevano cagare, ma lo so, uguali, sono altri che avevano dei problemi, non so perché, e gli altri uscivano bene. Ci sarebbe da farti l'applauso, a faccia però. E vaffanculo va. Comunque me l'ha insegnato Claudio, non è che... che ognuno di voi ha la sua esperienza, fai così, fai così. E niente, così li ho costruiti. E poi ci ho messo questo isolatore, ho fatto due buchi, uno per il cavo e l'altro per i tiranti, no? Per attaccarlo. Però io non mi ho mai piazzato su. Anzi, c'è una volta, per carità. No, se c'è portante, dopo 5 minuti bussavano la porta. Perché l'ha piazzato, cioè dopo mi avevo messo di piazzarlo. Sul tirante, ma poi non andava bene. Facciamo un numero di TV, un bombo, un bel. Che gli anni? Ma lui se proprio non ti vengono bene, ti vengono anche già fatti i puri. Come quelli già fatti, via. A me non interessa una cosa. Aspetta, dimmi. Comunque c'è gente che con i dipuri fa passi da gigante, specialmente gli amatori che usano i dipuri, hanno segnaloni anche fuori e cose, e dipende anche come li fai, se ti vengono bene o male, le misure bisogna rispettare. Certo. Vabbè, siamo al canale 5, sì, Santa Vittoria di Macca. A tu, siamo arrivati i siti di Globus in mani. Facciamo la ragazza su canale 5, se guardi. Come hai fatto già il presente? ne aveva voglia. E in più, con questo freddo, che se sciofa ci avrebbe da dormire. Anche io, come rifugio mi sono fatto, la vita. Però, bello. Oh, dall'otto si fa, io so che c'è questa usanza, che si fa dall'otto l'albero e il presepe. Lo so, come se diceva Graziano prima, c'è il gruppo prima, lui è sparito, è dal telefono, è sparito. Yeah. Così, così, usanza qua in Italia è così, dall'otto si dovrebbe fare, poi non lo fa quando vuole, per dire, anche non l'ha fatto già, così anzi. Sì, ma anche me l'ha ammazzato in derugato, come si suol dire. Io dico, se uno ha un qualcosa, ma cosa risolve la portante? Che se non le balle a me, se non però le balle a Gianni, per dire, a te. Ma c'è qualcosa che la dici, però mi gusti. Qua sono cose fastidiose. Vabbè. Ma cosa? Ecco, la portante di ieri notte, stavo parlando con Antonio, ci mettevo la portante. Addirittura a me non passa l'Antonio. Dovevo attaccare. La porta è qua, Tu pensi che da Claudia era 9.30, non passava nessuno. Beh. Ma comunque questo, vabbè. Non è tutto sbagliato. Io non c'ero ieri notte, ho provato. Sai cosa è successo? Che ho messo i canali di sopra per vedere se c'è il teso 45, invece poi mi sono dimenticato di rimetterlo normalmente, sono andato sul 5, non ho sentito nessuno, ma sono andato invece era sul 45, capito? Chi era sul 45? Non mi è capitato. Allora, io ho fatto un giro per se c'è la lettera sul 45 e poi mi sono dimenticato di mettere la manopola sui canali normali. Ieri sera poi sono andato, ieri mattina per se c'è la gente, ho guardato il 5, 10, 20 non c'era nessuno. E poi oggi mi sono accorto che era spostata la manopola, capito? Cioè per quello che non ho sentito nessuno. Quindi pensavo non c'era nessuno e ho chiuso. Incendiata anche. Ma un'auto, ma un attore guidando lui, però stava guidando un altro. Sono morti tutti e due sul corpo. Ma che poi lo dice tutti quei gamma, sì, che tutto, tutto bene. Grazie. Ah, fa un culo. Sì, vabbè, già, purtroppo. Questa gente che corre è sempre destinata, ma io ci stavo ascoltando al televisore, stavo facendo vedere dove era morto uno con la moto, non so se è una cosa recente di oggi oppure se è qualche cosa che stavano raccontando. Ieri è morto Romboni. Ah, è morto uno, è morto. Sono cose che ti puoi aspettare da un momento all'altro quando fai quegli sport lì, sono pericolosi, bastano nulla per farti cadere. No, ma la spiga che questo qua stava partecipando all'anno di commemorazione di Sitch, di cosa, di Simoncelli, ed è morto nello stesso modo. Arrivo. Sì, allora in tante giornate hanno fatto vedere anche cosa, c'è anche su internet il video. Cazzo, sono andato anche a commemorare a Simoncelli ed è morto lui. Guarda che del, come corridore del nostro periodo si chiamava, li correva insieme a Coso, a Luca Cadalora, non so se conosci Coso come corridore, se i nomi li conosci. E mi stava facendo la fotografia vigliana di quell'attore lì, un bel ragazzo anche. Muoiono anche i figli ogni tanto, meno male. Quindi Luca, tu non ti preoccupare che rimarrai immortale. Tu lo stesso, no, tu sei a Cotamurì. Io gioco a Cotamurì, ma tu vai via con le mola. Sei bello, stai attento. Cos'era, per fare pubblicità alla tua parente? Ma dico, tu sei bello, no? Ogni tanto muoiono in media, allora pure tu dovevo dire che tra un po'. Vedi, quello è un lavoro che non ha mai cali di cose, perché se c'è una cosa certa è la morte. Ma chi è? Tua cugina? Ah, cari. Eh? Cari, mia cugina. Guarda che c'è su Facebook, che c'è un'agenzia funebre. No, no, puttiche, no, no. Però sai che praticamente mi arrivano sempre le notifiche su e io non ho mai accettato. Mai, nulla, mai. E mi apparivano molte notifiche. Morale? Cosa? No, morale, non ho capito, siccome io ho visto che la stavi consigliando tu. Cazzo, no, non so chi sia, l'ho bloccata tu. Però qui sempre queste notifiche. Ma non mi interessano notifiche sue. L'ho bloccata e poi di nuovo si era disbloccato, non so come abbia fatto. Cioè praticamente non volevo accettare la sua, chiamiamola pubblicità, no? E poi di nuovo butta a capo. Dico, ma l'hai bloccata? Assoluta, proprio dovuta bloccare nel andare con la tua amicizia, no? Ma lì su messaggi, non mi manda più. Allora penso questo tipo, insomma tramite amici, no? Tramite amicizie, mi mandano queste notifiche, ma li continuo ogni giorno, 3, 4, 5, anche 10, c'è una notifica di politica, cose di votazioni, l'ho dovuto bloccare, poi ho fatto un altro contatto, te l'ho punto a capo, l'ho dovuto bloccare anche l'altro contatto, ma cosa me la puntiamo della politica? Io non è parente tuo, Luca. Negativo. Perché mia nonna si chiamava Podiero? Sul telefono. Tu la famiglia Grassi la conoscevi che abitava lì alle case del Canada? Parla con Muro. Alla legge quando entra in di compaio al giovane. Ah, tante d'oro. Tante d'oro, se mi si giro gli alveoli polmonari lo vedi. dirigibili, stava provando non so se qualcosa, comunque la presentò a fare, a mettere portante, dopodiché stesso segnale, se n'è andato in FM, quando ha visto che c'era l'accidente, l'ho sentito parlare, per quella, ci credi? Io invece pensavo non ci fosse nessuno, e invece non mi ero accorto che l'avevo spostato di banda e l'avevo rimesso sulla banda normale, ma l'ho spostato per fare ascolto e poi non ho rimesso la banda normale, ieri ho girato tutti i canali, boh, non aveva nessuno a girare. Hai fatto bene. E almeno non mi sono ascoltato la portante d'oro. Zero gli hai bovuro gabbo se non fa da bravo. Martino al telefono, arrivo su. Ah, io Luca, sempre piccionciando sta. Cominciando sta. Tanto, cosa ti stavo dicendo? Ma l'hai finita tutta la stazione? Sì, manca il treno. Non ho tutta finita. Finita, ma poi da te, guarda, vedrai che come la vedi ti piace un bel. Sì, ci avvengo a vederla, ma devo avere il tempo. Adesso stasera non faccio, avevo un freddo, se non si poteva stare. E poi dovevo andare alla foto domani, meglio che rientri presto, perché so che magari se poi vengo lì, dopo mi danno un taglio e non sono in forma. Perché adesso ci sarà proprio un grosso impatto, mi sto immaginando. Che magari dalle ferie passo direttamente al lavoro grosso. E non ti gridi. Cioè mi auguro per te, per chi comunque vive da un certo tipo di lavoro, che sia così, però anche ieri mi stavano dicendo questi del Tanit che gente ce n'è, però tutti con le tasche cucite. E insomma, purtroppo i tempi sono quelli. I tempi sono quelli. Bisogna stare molto molto attenti. Si trova qualche tipo di lavoro magari che ti dà una garanzia superiore, nulla isu e perché anche l'alimentare con la studia della concorrenza ti stanno facendo appizzi. Lo so, ma poi diciamo che i prezzi per la catena, per i negozi, per la catena per cui lavori tu non sono così concorrenziali, nel senso che ormai l'Eurospin e la Lidl stanno massacrando forte. Ma noi diciamo che abbiamo i prodotti primo che sono molto buoni e non costano tanto, ne abbiamo per tutte le esigenze. Sono i frutti primo che vanno, il latte, la pasta, tutte queste cose qua. I frutti primo sono buoni e sono dei prodotti di scarsa. Sì, ma vedi, lì ci sono, devo dire, ad esempio se tu vai a prendere la mozzarella di bufala alla Conad, se vai a prenderla alla Lidl, è molto meglio, no, all'Eurospin, è molto meglio quella dell'Eurospin, ma perché è una sovrapproduzione marcata Francia, con un'altra busta, che è incassata con un'altra busta. Aspetta un attimino che c'è una crisi qua, un attimo. Prodotta Arborea, animulimo babida. Attenzione, binario 5, se il collega ci ascolta, cappa. Ma li senti questi continentali? Sì, aspetta un attimo. Hola, ne avendo più, specialmente vicino a casa, mamma mia, è una cosa assurda. Alle parti di a Milano vedo un vinile, è tutto qua. Thank you.